I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. C'è 1 milione di famiglie che non ha alcun reddito da lavoro, nonostante i suoi componenti siano tutti in età per avere un impiego. Ed è il 6,6% delle famiglie totali. Quasi la metà di questo tipo di nuclei familiari sono con figli, ma ben 222.000 sono famiglie monogenitoriali dove il genitore è sostanzialmente la madre. È la fotografia che emerge dalla tabella dell'Istat aggiornata al 2016, una situazione che però risulta immutata sostanzialmente rispetto al 2015. Si tratta di famiglie dove se c'è un reddito quindi arriva o da rendita o da pensione. Quasi 1 milione di famiglie, 970.000, vede soltanto la donna al lavoro, sia part time che a tempo pieno. E la donna quindi diventa l'unica fonte di reddito perché il coniuge è in cerca di lavoro o è disoccupato. È il mezzogiorno dove la situazione si fa più drammatica, con metà delle famiglie senza redditi. Al nord sono 300.000 e nel centro 198.000. Uno spaccato sociale già drammatico che peggiora se si incrociano però i dati sulla disoccupazione. All'aumentare il numero dei figli, per esempio, aumenta la quota di genitori disoccupati. Il 7,3% nel caso di un solo figlio, il 7,7% con due e il 10% con tre. Sono situazioni che devono far pensare ancora una volta come gestire al meglio i fondi del welfare. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. 70 anni fa, il 22 marzo del 1947, veniva approvato l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Togliatti e Mendola avrebbero voluto scrivere che l'Italia è una repubblica di lavoratori. La Malfa e Martino, invece, appunto in quota liberale, preferivano che fosse scritto l'Italia è una repubblica democratica fondata sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro. Passò però alla formulazione che conosciamo oggi, appunto di matrice democristiana, e che fu votata 70 anni fa. Forse nel tempo in cui si chiede ai robot addirittura di pagare le tasse, in cui la disoccupazione tecnologica rischia di essere l'incubo della nostra modernità, ritornare a quell'Italia fondata sul lavoro può essere un esercizio non retorico. Hannah Arendt fece una domanda ancora attualissima già nel primo dopoguerra: che cosa succede, si diceva, in una società basata sul lavoro se il lavoro viene a mancare? Bene, lo vediamo oggi, e succede che magari si dibatte se creare o meno un reddito di cittadinanza proprio per contrastare la cosiddetta desertificazione del lavoro, che è poi però uno storytelling tutto negativo sull'impatto della rivoluzione digitale. Fa un certo effetto però rileggere oggi gli atti di quelle discussioni di 70 anni fa. A un certo punto qualcuno dice, a proposito del diritto al lavoro, che non chiede allo Stato sussidi, ma chiede che si creino condizioni tali da dare lavoro ai disoccupati. È un liberale? No, è Giuseppe Di Vittorio, leader carismatico della CGIL e membro costituente del gruppo comunista. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.